villaggio artigiano, questo storico degli artigiani che avevano il misto di abitazione sì. e di lavoro, e diverse persone provenivano appunto, si sono spostate, come sempre avviene, quando spesso avviene, si crea si dà vita a un quartiere nuovo, e c'è chi ha situazioni più precarie, meno soddisfacenti, meno adeguati ai cambiamenti della famiglia, molti si sono spostati dal villaggio artigiano storico al villaggio giardino. E quando noi abbiamo fatto il primo trick and track là in fondo, avevamo proprio delle persone volontarie che proprio storicamente provenivano dalle case popolari del villaggio artigiano, oppure avevano un legame stretto, legame che è stato rafforzato dalla presenza della comunità di base cristiana che aveva avuto lì la sua sede, dopodiché ha avuto la nuova sede nel centro civico che nel frattempo è stato costruito al villaggio giardino. Quando noi abbiamo fatto insieme un quartiere per la città, c'era già la nuova, il centro civico, e mentre per un periodo ci siamo conosciuti attraverso la scuola, perché eravamo prefabbricati e quindi si chiedeva di avere la scuola. Insomma, le famiglie si sono conosciute intorno ai servizi.